apro, chiudo l'anima con te. Animali vissero con noi. Uno, il canguro. Due, un bue. Cinque, anatra pingue. Quattro, il gatto. Tu non apri l'anima con me. Sensazioni sparse tra di noi. Uno, lo scongiuro. Due, paure. Cinque, tutto langue. Quattro, il gatto. Apro, chiudo l'anima con te. Chiudo l'anima con te. Sensazioni sparse tra di noi. Uno, lo scongiuro. Due, paure. Cinque, tutto l'angue.